laureato in lettere, ma non ho mai trovato un vero lavoro, solo un robetta piccola di contorno, nel senso che potevo vedere solo i contorni.